natali, lei vuole fragole con panna. I maschi si alzano le mani, come fanno gli animali. Vedo crisi culturali, film esotici. Siamo tutti molto umani, tutti piccoli così, picchi emozionali, disastri naturali. Prendo gli antibiotici solo perché siamo da soli e non mi va. Mi sfiori e dovrò dirlo, Emanuela. Io me ne vado mentre dici, ma che fretta c'era. Non provare a baciare una strega che poi fa male. La verità non è romantica, per niente erotica, e non si può scappare non dalla verità, perché non abita. E piangeva e piangeva Emanuela. E piangere.